Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Un piccolo salotto raccolto, con una libreria che ricopre le pareti e che sale fino al soffitto, una sedia a dondolo, un pupo siciliano e poche altre cose. L'essenziale, direi. Il fascino della parola, la seduzione del vivido raccontare, il potere attrattivo della voce, ovvero Andrea Camilleri. La sua presenza è priva di ogni inutile orpello che molti fautori di cultura portano in giro a mo' di medaglia puntata alla loro vita, intenti sempre a sottolineare chi sono loro, a chi hanno di fronte. Ci si siede di fronte a lui e ci si protende verso di lui con tutto il proprio essere per far sì che nulla sfugga, perché il corpo è partecipe dell'anima e della mente mentre si abbeverano a siffatta fonte. Il tempo si addomestica e accompagna i suoi lenti gesti, il suo discorrere pacato ma deciso. Ci si fa avvolgere dalle parole così come dalle volute di fumo che sembrano operare un incantesimo. Andrea Camilleri. Allora, professore, innanzitutto grazie per averci aperto le porte di casa sua. Io vado un poco indietro. Il suo primo romanzo è del 67, mi corregga se Il corso delle cose, anche se poi è stato pubblicato un po' di anni dieci anni dopo. Di acqua sotto i ponti ne è passata, ha scritto tanto, sceneggiatore, regista di teatro. Oggi che rapporto ha con la parola? Ha sempre lo stesso rapporto che avevo anche quando facevo il regista. Cioè, per me valeva il motto che un grande regista francese aveva tirato fuori, cioè Sir Remo, il signore, la parola re. Ecco, anche allora, quando facevo il regista, per me la parola del testo, il testo era quello che faceva l'idea registica che produceva lo spettacolo, non c'erano idee che nascessero al di fuori di quel testo, quindi il mio rapporto con la parola, certo l'ho usata la parola sempre, però sempre rispettandola. E si è sentito rispettato dalle parole? Non sempre le parole mi hanno rispettato, soprattutto le parole degli altri, però la parola è sempre adoperata in un modo dialettico, la mia parola è in posizione dialettica, sempre in rapporto con un'altra parola. E allora, se c'è consonanza, bene, se non c'è consonanza forse meglio, perché l'energia si produce dalla contrapposizione di due poli. Andiamo subito a questo suo ultimo libro che è appena uscito fresco di stampa, La setta degli angeli. Come è venuto a conoscenza di questo episodio realmente accaduto dal quale trae spunto per il romanzo? Molto semplice. Spesso dalla Sicilia mi mandano libri. Allora, 9 anni fa, il sindaco di Alia, che aveva curato la stampa anastatica delle opere di questo Matteo Teresi, pubblicata nel 1925, erano gli scritti americani di Teresi, premise agli scritti di Teresi una lunga prefazione nella quale appunto parlava di questa faccenda della setta degli angeli, da me assolutamente sconosciuta, con dovizia e ricchezza di particolari e di dettagli. Ecco, è stata la prefazione di questo sindaco al quale va il merito di avere ripubblicato questo libro di Teresi, che mi ha spinto a scrivere il romanzo. E in merito alla faccenda ci fu anche un trafiletto di Don Luigi Sturzo, no? Don Luigi Sturzo è riportato lì e intervenne perché naturalmente questo fatto provocò una polemica a carattere nazionale e intervennero uomini politici come Turati e Tasca, per esempio, ma anche preti come Don Luigi Sturzo. E il bello è che pure da diverse posizioni politiche convenivano tutti nella più ferma condanna di questi episodi. Quello che faceva più clamore era Don Luigi Sturzo, naturalmente essendo anche lui un prete in questo senso. E a me interessava, e l'ho detto e ripetuto diverse volte, più che il fatto in sé di questi preti che si approfittavano, interessava il riflusso contro colui che aveva rivelato la verità. La verità è scomoda e ancora una volta lì è dimostrato. Il libro ha un andamento particolare. Nel leggerlo mi ha ricordato molto queste schermaglie, anche se l'argomento è chiaramente più scabroso rispetto a quello della commedia dell'arte, mi ha ricordato le baruffe chiozzotte di Goldoni. È un omaggio anche involontario alla commedia dell'arte? Non credo, non penso, può darsi che ci sia, avendola praticata, cioè avendo fatto il teatro commedia dell'arte, sono cose che ti rimangono dentro, non è che li espelli, fanno parte delle degli elementi del tuo sangue di scrittore, quindi può darsi che inconsciamente ci sia, coscientemente no. Sì, perché l'ho trovato un romanzo in cui il Camilleri regista viene fuori molto rispetto agli altri questo romanzi. Sì, questa è un'osservazione molto giusta, c'è una organizzazione scenica nel racconto abbastanza evidente. Si potrebbe pensare anche a una trasposizione allora in teatro? Io non penso mai a questo tipo di trasposizioni. Spesso mi dicono, ma lei questa cosa l'ha scritta pensando alla televisione? E io rispondo che quella è una domanda che mi indispone. Quando scrivo, penso solo a quello che scrivo. Pensa solo alla scrittura. Poi dopo, se si fanno adattamenti televisivi o teatrali, come è successo per il Birrai di Presa per la congestione del telefono, va bene, ma al momento, all'atto della scrittura, non ci penso. Com'è il Camilleri lettore? Ma vede, io ero veramente in giovinezza e nella prima parte della mia maturità sono stato un lettore onnivoro, con una rapidità di lettura piuttosto singolare, questo devo dirlo. Avevo una lettura fotografica che poi per correggere le bozze di stampa è una brutta cosa. Ti passano dei refusi o degli strafalcioni, non te ne rendi conto. Sì, perché è quella lettura che prende tutto il esatto. Periodo, ne so qualcosa. Ecco, e io ho cominciato a leggere, ho raccontato, ho cominciato a leggere troppo precocemente, cioè ho cominciato a leggere romanzi a 6 anni. E il primo romanzo che ho letto è stata La follia di Almayer di Conrad, che trovai che papà non era un intellettuale tutt'altro, ma era un lettore finissimo, aveva un fiuto straordinario, devo dire, a distanza di tempo e ricordandomi dei libri che avevo. Quindi che vuole, bambino mi prendevo tutte le malattie infantili che c'erano, allora non esistevano vaccini. Figlio unico, non c'era la televisione, in un giorno esaurivo i giornaletti, L'Avventuroso, L'Audace, tutti quelli che uscivano all'epoca. Dopodiché che facevo? Allora un giorno disse a papà, posso leggere qualche libro tuo? Dice, sì. Quali? Dissi io con una incosciente autocensura. E lui mi disse tutti. non ti preoccupare. E così presi il primo libro che ricorderò sempre, La follia di Almayer, e lo lessi. E dopodiché lessi Conrad Melville, lessi anche un autore che si chiamava George Sim, e poi si scoprì essere George Simenon. Insomma, a farla breve, saltai tutta la letteratura per l'infanzia e la giovinezza a pie pari. E poi mi sono rifatto a 16 anni, ho letto Verne, Salgari, eccetera, eccetera. I grandi maestri dell'avventura, in pratica. Eh sì, perché dovevo coprire un vuoto, mi mancavano. Lei ha detto che non riesce, non ha fantasia per scrivere cose che non conosce. Sì. Però ha letto, ha mai invidiato, che so, Salgari o Verne, per esempio invidiato. Salgari... Sì, per la loro fantasia. Guardi, Salgari non si è mai mosso da Torino, sì, mi pare. Sì, sì, sì, sì. Io non soffro di invidia, però devo dire che questa fantasia così dell'universo concepibile all'interno della propria stanza, quello l'ho invidiato, no? Io non ce l'ho questo tipo di fantasia. Adesso i libri escono anche in formato elettronico. Il mercato sembra rispondere bene, ci sono degli appositi strumenti per leggere. Cosa pensa? Che futuro immediato avrà il libro in formato cartaceo, secondo lei? Non riesco a concepirlo, non so darle una risposta. Pare che vada molto bene. La cosa però non mi turba. Per esempio, qui siamo circondati da libri ed è bellissimo, dà nel senso del calore, non soltanto di quello che lei può aver letto o può aver scritto, se ci sono libri suoi. Quindi una casa senza libri è davvero, come diceva Cicerone, un corpo senza un'anima. Ma direi proprio di sì, perché vede, io non riesco a concepire una casa formata da una tavoletta di lettura, dove i libri stanno lì dentro quella tavoletta. Anche perché leggevo... Il libro ha una sua fisicità per noi che leggiamo. Il libro è come una persona. I libri sono diversi fra di loro. La tavoletta elettronica sulla quale legge il romanzo è sempre la stessa. Il fatto stesso che il libro abbia un formato, un carattere e un odore diverso dall'altro. Una volta, quando i libri si usava a tenerli sciolti e non legati, imprigionati nel cellofan, io entravo in una libreria, proprio cosa facevo? Aprire e odoravo. Io odoravo il libro. Dice, ma il libro che fai? Te lo mangi che lo odori? No. Però l'odore del libro è importante. È molto importante lo sfogliare. E poi ci si può affezionare a un libro, ma non a uno strumento. Ci si può infatti ti porti a letto un libro, portarsi a letto uno strumento è un po' raggelante. Cosa usa adesso per scrivere? Usa il computer o la macchina per scrivere? No, il computer ormai da 11 anni, 12 anni. Quindi è cambiato l'approccio che ha nella scrittura? Perché c'è una differenza? No, non è cambiato l'approccio, mi ha dato quello che non si spiegano, perché io abbia in vecchiaia aumentato, diciamo così, la quantità dei libri che produco, è dovuto al computer, perché, vede, io prima, quando scrivevo in macchina, ovviamente macchina elettrica, con correttore e tutto, mi capitava di fare un errore di scrittura elementare, vero? Allora un altro avrebbe corretto, col correttore, e scritto sopra, io già la facevo. Io estraevo il foglio, la pallottolavo e lo buttavo e riscrivevo la pagina. Riscrivendo la pagina era inevitabile che accadesse un altro errore di scrittura in un altro punto, no? E io riappallottolavo e lo buttavo. Quindi, oltre a rischiare di essere sommerso dalla carta, si perdeva un sacco di tempo. Il computer mi ha eliminato questo tic, questa mania mia, perché il computer la parola te la fa sparire, non è che te la fa proprio come se non fosse mai esistita. Non solo, ma ti invoglia anche a una maggiore attenzione quando scrivi, perché nei primi giorni mesi in cui adoperavo il computer, a parte dover chiamare il tecnico e dire senti, digli che io scrivo così e non mi rompa le scatole dicendo che non si scrive in questo modo, quindi d'aver vinto brutalmente questa battaglia, cioè levandogli la funzione della correzione, la vera lotta si è svolta tra chi dovesse scrivere il romanzo, o io o il computer, perché non era abituato a quella velocità del computer, quindi finiva che il computer a momenti lo scriveva lui il libro, e allora anche questo ho dovuto addomesticare il computer. Quindi lo ha reso completamente a sua disposizione, ha tolto tutte le funzioni. Ormai è bello, lei, no, uno mi è morto tra le braccia dopo 10 anni di vita, ho visto come muore un computer, collassa proprio, sconnette, non si capisce più, e poi boom. Ed era proprio accaduto pochi giorni dopo che avevo sentito Forsyth, lo scrittore americano, dichiarare che aveva 10 anni un computer ed era terrorizzato all'idea che questo computer moriva perché non si sarebbe potuto adattare a un altro computer, vedeva il suo futuro di scrittore molto compromesso. Io avevo lo stesso terrore. Allora è morto, ho cercato di farlo riparare, mi hanno detto che era preistorico, ormai irriparabile, e che allora dice, datemene uno di modello simile, non esistono più, erano scomparsi nella storia dei computer. E allora ho preso uno modernissimo, che però è stato estremamente intelligente con me, si è adattato. Ha capito subito da che parte girava il fumo. Forse perché ho tenuto il vecchio e il nuovo per un po' accanto l'uno all'altro, evidentemente forse il vecchio gli avrà dato in extremis delle istruzioni, presumo. Io le ho fatto questa domanda perché avevo letto un articolo, o era un sondaggio, in cui si diceva che la macchina per scrivere costringe chi si siede davanti a lei prima a pensare molto, invece il computer dà molti aiuti, è molto più semplice nell'attuare la trama, la narrazione. Questo chi è vero, condivido, infatti il rischio quando poco fa dicevo che la lotta è stata tra chi doveva scrivere il romanzo, intendevo proprio questo. Anche perché ti semplificava talmente la strada che era lui che proprio finiva col determinare alcune cose. No, soprattutto fermati. Con il dialetto, perché non riconosceva le parole in dialetto. Le parole. No. Specialmente questo della Città degli Angeli, che è completamente dialettale. Ma io ho riso tanto di fronte al verbo runfuliare, che ha una forza dirompente impressionante. Ronfuliare. Sì, ronfare. Ronfare. Sì. Ed è un termine di uso comune, non me l'aspettavo, proprio nelle prime pagine lei lo adopera per il signore che si era addormentato sulla poltrona che ronfuliava talmente tanto che stava prendendo fuoco. Io le faccio un'ultima domanda perché non abbiamo parlato di Montalbano, però non le faccio la domanda sul personaggio, su lui si è già detto di tutto, di più, sui romanzi, è successo. Le faccio una domanda sulla serie televisiva che è stata acquistata dalla BBC e la manderà in onda in prime time e con i sottotitoli, quindi eviterà il doppiaggio che toglie poi tutte quelle sfumature che rendono la serie appartenente e radicata alla nostra cultura. Gli inglesi sono famosissimi per il loro humor legato più alle freddure. Come se l'immagina davanti alla potenza di Catarella, per esempio? Ma inevitabilmente dovranno fare dei sottotitoli in cui la loro lingua sarà deformata per forza di cose. Per forza di cose. Un cattivo doppiaggio però rovina. Cioè, non è detto che i sottotitoli siano male. Il sottotitolato in svedese, molto ben sottotitolato, gli svedesi ridevano quando dovevano ridere con i sottotitoli. Anche perché avete la fortuna in questa serie di avere degli attori che hanno una mimica facciale e sono molto credibili nel loro ruolo. Uno di questi è Catarella, non è facile. Non è facile, e vede che sono la fortuna. non detta di questa serie, a parte la bravura personale di Zingaretti, che sono tutti bravi gli attori, cioè è difficile che lei trovi quello che si dice un cane, cioè uno che recita male all'interno. Tutti sono a un certo livello. E sto vedendo anche in questa seconda serie, ho visto le prime due puntate, dove l'attore è un altro e tutto il commissariato è un altro, perché è il giovanissimo Montalbano, che ci sono attori siciliani strepitosi. Cioè proprio caratteristi straordinari, non pensavo che ce ne fossero tanti in Sicilia. È la bellezza di una serie, perché il commissario Montalbano fa tanto successo anche nelle repliche, fa tanti ascolti anche nelle repliche, la gente si affeziona al libro, si affeziona al personaggio, sento dire spesso come leggi il libro, così sono le immagini. Ed è importante questa fedeltà della parola scritta da parte c'è delle immagini. Fino a questo momento, vede, la fortuna è stata trovare due buoni registi, che sono anche Sironi per la serie Montalbano anziano, che tornerà poi con i nuovi romanzi, e questo Tavarelli per il giovane Montalbano, dove, come lei acutamente osserva, la fedeltà più che dal dialogo è data dalle immagini, come è giusto che sia, perché è inevitabile che bisogna tradire il testo letterario, perché è una trasposizione in un linguaggio completamente diverso. Allora, più proprie sono le immagini, più giusta è la sceneggiatura. E i luoghi diventano riconoscibili, ecco perché ci si affeziona a questi sceneggiati, diventano riconoscibili non soltanto per noi che insomma siamo siciliani, viviamo i luoghi che conosciamo fin da bambini quasi, ma anche per chi è di fuori e legge vede il film. Ma, guardi, ora la BBC lo fa per l'Inghilterra, però questo Montalbano è già stato già fatto in televisioni straniere. Un giorno mi telefono una ragazza che parla, manco l'anno scorso, molto meno, l'anno scorso, il primo di quest'anno, in italiano perfetto, mi dice: dottor Cavillieri, ho avuto il suo numero fortunosamente, siccome sto dando una tesi di laurea sulle trasposizioni televisive di Montalbano rispetto ai testi di Montalbano, ai libri, vorrei venire a parlarle, farle delle domande che riguardano questa tesi. Ha detto: senta, siccome ho 2 o 3 giorni liberi da domani a giovedì, questa rimane perplessa, mi dice: sa, mi viene un po' difficile venire entro 2 giorni, perché dove? Dice: io do l'esame, la tesi di laurea a Wellington. Non sapevo onestamente dove si trovasse Wellington. Dico: va bene, allora mi telefoni quando vuole venire, vediamo. Sono andato subito sul De Agostini, ho scoperto che in Nuova Zelanda, dove avevano dato Montalbano, poi la ragazza è venuta, parlava l'italiano, perché figlia di italiani, ma lei è nata lì e dava la tesi laurea lì, quindi voglio dire, in alcuni paesi di area linguistica è già stato dato Montalbano e credo con successo. Quindi speriamo ora che conquisti pure gli inglesi che seguono la BBC. Ma una parte, a me piace di più conquistarla in un altro modo, attraverso i romanzi. E allora, devo dire che sono molto contento che il 5 dicembre vado a prendermi la laurea in letteratura a Dublino, dove la maggior parte dei romanzi miei che conoscono è Montalbano, e quindi mi fa più piacere di essere conosciuto per i miei libri che non per le trasposizioni televisive. Assolutamente sì, starei ad ascoltarla per ore. E ho notato una cosa, lei è una persona nostalgica. Attenzione, di che cosa? La nostalgia. Dice, in generale, è una persona nostalgica, no, che tende a provare nostalgia. No, non provo nostalgia, sinceramente, no. Non credo mai di avere delle nostalgie, certo, ogni tanto si hanno, ma non sono così fondamentali come si crede. Penso che siano, debbano essere leggeri, devono arrivare ogni tanto a farci un po' di compagnia, l'importante è che non appesantiscano. No, non appesantiscono per niente. Io la ringrazio. Io ringrazio voi, vi auguro tanto buon lavoro, tanto. Grazie. Io a livello personale dico che me ne vado a casa con una sensazione indescrivibile e sono felice di non avere le parole per raccontarlo, così me la tengo per me. Grazie. Grazie mille. Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino.